dato tempo. E che scommesso di cambiare un mondo, tornati indietro e far pagare il conto. Ma adesso siamo qui, adesso siamo qui, adesso siamo qui, adesso siamo qui. Industriali senza alcun rimpianto, ferite chiuse, cuore ancora aperto, gran domanti nel deserto. E adesso siamo qui, adesso siamo qui, adesso siamo qui, adesso siamo qui. Yes people, questo è Jolly Roger. Partiamo con questa nuova puntata venerdì 26 maggio. Siamo arrivati finalmente quasi in estate, anzi siamo arrivati in estate, finalmente si inizia a sentire un po' di caldo e siamo contenti, insomma, che va così. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano, salutiamo ovviamente le nostre amiche del Branca del Gas che dividono con noi lo spazio, siamo contenti di rivederle ogni venerdì e stare un po' tutti quanti insieme, anche questo è l'obiettivo, insomma, di Jolly Roger. È stata una settimana ricca, insomma, di avvenimenti, finali di coppe e compagnia bella, e fra le tante cose mercoledì è venuta a mancare una grande artista e noi iniziamo la puntata con un pezzo per ricordarla e poi iniziamo la nostra puntata. Yeah. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Siamo partiti con la prima canzone, ricordo di Tina Turner che è venuta a mancare mercoledì, un pezzo anche lei della storia della musica internazionale. E iniziamo questa nuova puntata. Settimana scorsa abbiamo parlato un po' di cambiamenti climatici e compagnia bella. Oggi invece, visto che comunque abbiamo superato ufficialmente la nostra la 52esima puntata, essere precisi oggi, niente, quindi volevamo raccontarvi un po' quello che è stato il percorso di Jolly Roger. Ovviamente lo facciamo raccontare ai ragazzi e parleremo appunto anche di questo rapporto che si è creato all'interno di Jolly Roger, quindi un rapporto di amicizia, di famiglia, di fratellanza. Appunto, noi ci definiamo una crew. Quindi iniziamo questa nostra piacevole chiacchierata. Nel frattempo salutiamo il nostro amico Lucone, che questo venerdì non sarà presente per problemi suoi, insomma, cioè, ha impegni di diversa natura, diciamo così. Salutiamo anche il nostro amico Damiano, detto anche voce impostata, anche lui assente questo venerdì. E salutiamo anche Eliana, l'assistente e amica di Matteo. Visto che appunto abbiamo nominato appunto Eliana, salutiamo tutto il terzo E del liceo indirizzo linguistico dell'Orazio, e salutiamo la prof Mirra, la nostra fans number one, è stata con noi la settimana scorsa. E dopo tutti questi ringraziamenti partiamo con la puntata. Allora, io sono qua con Alice, quindi iniziamo. Allora, Alice, parliamo un po', come ho detto prima, di amicizia. Che cos'è per te l'amicizia? Un piacere. Perfetto, proprio breve e sintetica, meglio di così se muore. Credi nell'amicizia? Diciamo di sì. Diciamo di sì, l'ho messo quasi in crisi perché era una certa... mi guardava come di che devo dire sì o no, boh, forse dopo... andiamo, allora... Hai amici con cui a cui racconti cose che non fai sapere a tutti, o meglio, cioè ti confidi, racconti cose che appunto non, magari non dici a mamma, non dici a tua sorella o altro, o a chi insomma? Sì. Hai mai tradito un amico, visto che comunque tu mi hai detto che c'è questa persona qui con la quale tu ti racconti le cose due persone, raccontaci un po' appunto di questo tipo di rapporto che ho con questa persona. Magari, non lo so, non diciamo il nome. Si chiama Giulia. Appunto, abbiamo detto non diciamo il nome, ma non lo diciamo comunque. Giulia, raccontaci qualcosa di Giulia. Si chiama Giulia, praticamente, è un maschietto. E lui mi racconta sempre di una mia prof. Sì, io penso, tipo, praticamente penso sempre al mio prof, che si chiama Giorgia, e io mi confido con lei perché la penso sempre. Ok, insomma, quindi diciamo che per te l'amicizia è una cosa fondamentale. In Jolly Roger abbiamo raccontato, insomma, che abbiamo trasmesso ben 50 ricche puntate, anzi 52 essere proprio precisi. Jolly Roger, prima di diventare un programma, era un gruppo. Raccontaci un po' da quant'è che conosci queste brutte figure, tipo la mia, quella di Matteo, la splendida splendente di Luca, da quanti anni li conosci? Otto anni. Ah, quindi diciamo non una cosa, una cosetta, insomma, quindi diciamo siete cresciuti insieme. Sì, diciamo siamo cresciuti quasi insieme, siamo amici da tanto tempo e non da poco, e ci vogliamo bene, anche siamo amici del cuore. E anche prima del giorno di oggi andavamo in giro, andavamo a passeggiare, andavamo a fare, facevamo un sacco di cose, facevamo anche, perché io e Maresa, mamma, Matteo, cioè, ma Matteo si organizziamo con Marisa per vederci insieme a me e a mamma, e anche perché per uscire, per andare in piscina e anche per andare a una volta per andare in, siamo andati in piscina, ci siamo divertiti tanto, e però è tanto tempo che non ci andiamo in piscina, però sarebbe bello andare in piscina, però basta che non piove. Beh, ovviamente, visto che comunque tutti i pomeriggi sta piovendo, e niente, quindi diciamo che ha raccontato quello che era Jolly Roger. Noi prima ci incontravamo il venerdì, passeggiavamo, ci raccontavamo un po' le cose, si faceva un po' tutti insieme, ci si prendeva un caffè, insomma, una cosa molto di amicizia, appunto. Allora, andiamo con un altro, con il secondo pezzo di Jolly Roger, poi torniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Fammi compagnia, l'è andata via, spero che poi la vedrò a casa mia. Che tra due ore ripartono i tram, fammi fumare, tanto chi ti può multare a quest'ora mi sa che a dormire. E abbassa pure la saracinesca, non credo che né io né te domani si andrà a messa. Curami un po' questa amarezza che ho, perché ero io quello che non parlava, il bambino così magro che il bullo picchiava, il ragazzino che tutto voleva e quando non poteva rubava. Ci sono quelle sere che sono più dure, dove serve bere via le paure e dentro ci si sente piccoli per. Ci sono quelle sere belle da morire, dove puoi giocare invece di dormire, quando ci si sente piccoli per sempre. In due minuti sparisco, fa finire il disco, sì è la musica che mi ha salvato, ma a volte non capisco. Se chi mi dice ti amo sappia veramente chi sono, solamente come mi chiamo io, che ho chiuso fuori il bene, ho fatto entrare i guai, bruciando i miei vent'anni e ciò che guadagnai, viaggiando, viaggiando, senza arrivare mai. Perché ero io a dare fuori di matto, quello che l'unico amico che c'aveva era il gatto, quello che a un certo punto è sparito e non lo avete visto più. Ci sono quelle sere che sono più dure, dove serve bere via le paure e dentro ci si sente piccoli per sempre. Piccoli come i banchi di scuola quando lì si vede da grandi, del libro cuore ora ricordi soltanto franti. Piccoli come i cortili adibiti ai giochi, come quando la mamma ed il papi ascoltavano truppi, intanto stavamo imparando tante tante poesie che hai dimenticato, ma le canzoni dei cartoni è quello che hai salvato. Piccoli come piccini su una salta post, ci facevamo piste solo polistrippo, il vina, film, i colce, i fuori, e vai di gioco nelle patatine, giù con l'album delle figurine, piccoli prima di crescere assieme al prezzo del barile. Ogni tanto stanco, manco stai lottando con Rocky e Rambo, ma ne vale la pena anche quando ci sono quelle sere che sono più dure, dove serve bere via le paure e dentro ci si sente piccoli per sempre. Ci sono quelle sere, quelle da morire, dove vuoi giocare invece di dormire, quando ci si sente piccoli per sempre. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, appunto Piccoli per sempre, si raccontava appunto di Jolly Roger. Alice si conosce con Matteo da circa 7-8 anni, con Luca invece? 4. Perfetto, insomma, quindi io infatti fai tante cose, lo ricordo, io e Alice pure ci conosciamo da circa 8 anni quando eravamo gagliardi, alti, biondi e con gli occhi azzurri, giusto? Diciamo che me l'ha detto Chiara. Vabbè, Chiara, Chiara, la fonte ufficiale è il tipo ricordi di Facebook, Chiara ricorda le cose, bravissima Chiara. E quindi insomma, ma Alice me la ricordo, cioè, veramente che eravamo bambini tutti e due, e lo stesso amico Matteo che ho qui di fronte, che veramente adesso ci guardiamo quasi in faccia, all'epoca lo guardavo dall'alto verso il basso, bello così. E proseguiamo, Alice, allora, che cosa ci vuoi proseguire a raccontare sull'amicizia? Diciamo, l'amicizia a me piace tanto, anche sui, anche diciamo, allora, come stavamo dicendo prima, è che a me l'amicizia mi piace tanto, però solo ci sono delle persone che degli amici miei che a volte o mi offendono, magari mi danno, tipo su Facebook mi danno delle amicizie che io magari non conosco, ovviamente. Esatto, perché abbiamo parlato anche di amicizie nei social, vista la settimana scorsa, appunto si parlava di social, anche su Facebook uno richiede amicizie, magari lasciando stare il discorso che Alice è una pischella rispetto a me, e obiettivamente Facebook negli anni inizialmente serviva per ritrovare amicizie magari di persone che conoscevi ma che in quel momento non erano presenti, o meglio magari erano fuori Italia, quindi era un modo per riprendere, riallacciare i rapporti, soprattutto magari con gente con cui si andava a scuola. Si facevano quelle cose abbastanza tristi delle cene del liceo dopo 20 anni, insomma, tutte cose anche molto interessanti, e che poi è bello rivedere persone con le quali si è trascorsi in parte della vita, insomma. E quindi niente, allora andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta. Tranquilla, non dormire. Usa la zina. Il mondo è tutto rosa, stessa libertà. Non esiste uomo o donna, non c'è criminalità. Nel cielo un corpo azzurro nella sua città. Ha gli occhi verdi e un po' ribelle. Scende per strada con i tacchi. Carabinieri, via le manette. Qui non un crimine, amare chi ti va. Piace veramente a tutti e fa l'amore in tutti i posti. Ho 1000 diamanti, ma lui non gli basta mai. Osa la zia, osa la zia. Rosa, fammi del male se riesci. Siamo così diversi. Mentre facciamo l'amore già perso. Il tuo cuore tra i denti. Sei molto più sexy quando ti lamenti. E poi ti rivesti. Dici che mi odi ma sento che menti. Conosco i tuoi sentimenti. Conosco la chimica. Se il tuo corpo balla tra le luci dei club questa sera, possiamo fare quello che ci pare. Qui non è un crimine amare chi ti va. La sigaretta in bocca, la mano nella tasca ed un mare di voci per lui canterà. E ritorniamo in diretta, si parla di amicizia, ma tante volte è sottile il confine tra amicizia e amore, capita, insomma, si è sentito parlare di tante amicizie e poi si trasformano nell'arco del tempo in amore, magari appunto con esperienze e tutto quanto, uno si riaffaccia a persone che non vede con altre modalità. E ora passo il mic al nostro amico Matteo. Appunto, parliamo con te di amicizia. Che cos'è per Matteo l'amicizia? L'amicizia importante che certo certo con i miei amici di grazie. Perfetto, allora appunto le prime amicizie avvengono ovviamente avvengono a scuola, quindi un parte vengono imposte da quelli che sono i canoni dell'educazione in generale. Ovviamente non solo nella scuola, poi ci stanno altri contesti in cui uno conosce persone che possono essere fare quello di attività sportive, al catechismo, il frequentare quelli che una volta erano i muretti, ora non esistono più perché esistono i social, prima esistevano i muretti dove quasi tutti ci si incontrava, si faceva un po' di vita sociale e poi dal muretto si è passati appunto al social, magari prima da grandi nemici, dopo una ricca scazzottata si diventava grandi amici e capita perché con persone che conosco a cui non posso fare il nome è capitato così, ce ne siamo dati, ma dopo che ce ne siamo dati di santa ragione siamo diventati dei fratelli, perché a volte è così, capita così nella vita, giusto Ciccio? Sì, tutto. E quindi diciamo, ora, noi quante volte ci siamo menati? Tantissimo! Perfetto, io gli dico sempre, via qua Ciccio che te smonta e lo sa, e lui è già predisposto in modalità smontamento, giusto? Tipo Ikea, uno lo smonta e l'altro lo rimonta. Io ho provato a rimontarlo anche diverse volte in maniera diversa, ma sempre lui ci ritorna. E allora, noi abbiamo detto, noi siamo amici, però siamo anche di tifoserie diverse, giusto Ciccio? Uno ti fa in un modo, uno ti fa in un altro, però siamo amici, quindi l'amicizia esiste anche fra persone che possono ti fare squadre diverse. Con gli amici si va allo stadio, giusto? Sì, tutto. Nella curva giusta, ovviamente. È giusto, ma fanno tutto. Avete sentito tutti? Probabilmente sta qualche problema di connessione, ma noi abbiamo registrato, quindi ha detto lui andrà in curva. Come hai detto, in curva? No, ripeti. Curva, tu, no. L'ha detto, non lo vuole ripetere, ma l'ha detto. Va bene, ora andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta sempre solo su Pirate Radio. Il sole muore già e di noi qua questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei. Lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te, lo stesso pensiero. Io e te, il mio respiro. Sarà tornare ragazzi, crederci ancora un po'. Smoccheremo i muri con un altro no. Cerca me e ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare chi era lei? Amico era ieri, le vene le hai spiegate ormai. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, problemi di connessione, ovviamente ormai il famoso bello della diretta lo riusciamo a risolvere anche facendo contemporaneamente 7547 cose, però va bene così. Allora, noi si parla di amicizia, appunto passava il pezzo di Renato Zero, parlavamo adesso con Matteo appunto dell'amicizia, di cosa vuol dire essere amici anche se si tifano squadre diverse, della curva giusta dove andare. Qual è la curva giusta dove andare? mattina della radio con la nun, con la nud. Ha detto un mix, però noi abbiamo la registrazione, quindi non spoileriamo niente, così le persone che prima non sono riuscite ad ascoltarci possono riascoltare il podcast della puntata e giudicare voi. Ovviamente non possiamo ripetere quello che è stato detto, perché Paganini non si ripete. Luca, visto che sei rimasto tu a parlare, ancora non esprimerti più che a non parlare, parliamo secondo te che cos'è l'amicizia. Abbiamo raccontato di Jolly Roger, che ad esempio Alice e Matteo si conoscono da 8 anni, confermo anch'io, perché eravamo tutti quanti alti, biondi e con gli occhi azzurri, poi col tempo siamo diventati ancora più belli. E con Luca, appunto, Alice e Matteo ci si conosce da 4 anni. Prima di diventare Jolly Roger, di diventare quello che siamo in questo momento, abbiamo fatto un percorso, quindi ci si incontrava i pomeriggi, andavamo al bar, facevamo le passeggiate, si cazzeggiava, diciamo così. E da lì è nato un rapporto, appunto, di amicizia, di conoscenza, di fratellanza, di frequentazione, fino a che poi siamo diventati ufficialmente una crew con quello che appunto è Jolly Roger. Ora Luca, raccontaci un po' che cos'è secondo te l'amicizia, quali sono i pro e i contro dell'essere amici e quanti amici hai. Per me l'amicizia è gioia. Quando tu hai un amico puoi fare tante cose: vedere la televisione, andare a fare una passeggiata, mangiare un gelato, fare tante bellissime cose. E io di amici ne ho tanti, come Damiano, il mio amico Alessio, Francesco, Aliciotta e Matteo, che stanno sempre con me qui al Jolly Roger. Perfetto. E appunto si parlava anche dei segreti, cioè perché tu confidi determinate cose, quello che non si riesce a raccontare magari ai propri fratelli, ai propri genitori. L'amico serve a questo. E certo che sì. Tipo, se io dico una cosa a un mio amico e un mio amico la dice a un'altra persona, io lo tradisco. Esatto, infatti prima si parlava anche di tradimenti, cioè si parlava appunto che magari dall'amicizia si può arrivare anche a innamorarsi, a diventare quelli che poi si viene considerato una coppia. L'amicizia può essere anche, come abbiamo raccontato prima, una sottospecie di tradimento. Quando io racconto una cosa a un carissimo amico e l'altro amico lo riporta ad altre persone, io da parte mia mi sento tradito. Ovviamente capita in tutte le migliori famiglie, come si direbbe. Poi ovviamente sono anche un'esperienza che fa poi gli amici, come dicevamo prima, si portano e si coltivano col tempo. Quindi, come ho raccontato prima, uno dei miei migliori amici, di cui non faccio nome, siamo passati dall'esserci antipatici a diventare ottimi amici, gli amici che conosci anche tu, Otello. Con Otello ci conosciamo da una vita e mezza. E siamo anche lì, è nato un rapporto, conoscendoci, frequentandoci, facendo cose insieme. Questo è il bello dell'amicizia. E niente, allora mi guarda Alice che mi richiama il microfono. Tu cosa ne pensi di quello che stiamo raccontando, insomma, del tradimento soprattutto nell'amicizia? Ne penso bene. Beh, lei è molto positiva, visto che oggi c'è il sole, inizia a far caldo, ci iniziamo a appiccicare. Io faccio una domanda a ognuno di loro, visto che appunto parlavamo di tradire l'amicizia. Tu, Luca, hai tradito un'amicizia? Non voglio sapere nomi e cognomi, indirizzi, dov'ha, chi è, eh? Sì o no? Secco. Sì, ho tradito. Tu, Ciccio? No, Niro. Bravo, io lo conosco, quindi lo stavo a guardare con la coda dell'occhio. Tu, Alice? Se mi hanno tradito. O sei tradito? A me mi hanno tradito. Perfetto, l'ha sottolineato, a me hanno tradito. Detto questo, andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo con questa nostra piacevole chiacchierata. tutto il resto è vita. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo in questa nostra storia, sono io che vado a fondo. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato, lo vedi sto piangendo, ma io ti ho perdonato, ese amor che nulla ho amato. Amore, amore mio, perdona, in questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, problemi tecnici per noi risolti da un po', però ovviamente ci sta il podcast, quindi non ci sono scuse, oltre al fatto che, come dicevo a microfono spento, ci salutiamo, non ho salutato non per mancanza, ma perché diciamo sono partiti inizialmente i saluti, ma non ho avuto tempo. Saluto tutti gli amici e tutte le amiche di Gemini Network e di Radio Grad, che ci ritrasmette tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18. Quindi chi non ha avuto modo, oltre al podcast, ci sta la possibilità con Radio Grad di ascoltarci, quindi non ci sono scuse per poter riascoltare Jolly Roger. Si parlava appunto di amicizia, pezzo di Antonello Venditti. Gli amici servono anche nei momenti di difficoltà, lo dice la canzone. È un momento di difficoltà quando un uomo viene lasciato dalla donna, è come un cane bastonato. Confermo, ci siamo passati tutti, che non c'è passato non è un uomo, al mio modo di vedere. Però appunto si parlava di amicizia, di quello che è stato anche il percorso di Jolly Roger, da gruppetto di Desperados che eravamo 4 anni fa. Piano piano abbiamo buttato giù, abbiamo creato quello che appunto quello che state ascoltando, quindi siamo diventati ufficialmente una crew, abbiamo fatto un salto in più dalla conoscenza, dalla frequentazione, siamo diventati grandi amici, una famiglia che si supporta. Poi abbiamo anche la nostra chat con la quale ci sentiamo, ci scambiamo foto, ci si confronta. Insomma, è una realtà, cioè una realtà nel senso che è un rapporto che si coltiva quotidianamente, non solo il venerdì dalle 17 alle 18, perché poi sembra tutto bello, ma c'è anche un percorso che si fa con i ragazzi tutta la settimana. E quindi va bene, Ciccio, il campionato sta finendo, la finale di Coppa Italia è andata come andata, ci stanno altre finali, non mi guarda che te do una capocciata, te l'ho promesso già dalla settimana scorsa, quindi non parliamo di campionato, quindi ora ritorniamo a quella che è la rubrica del nostro amico Matteo. Ciccio, diamogli quest'ultima, che è penultima di campionato? L'ultima di campionato. Allora, vai, pronti, andiamo con le partite. Da solo, Pite la Zap. Poi? Iterata, Pite la Latta. Poi? Bologna Navi, Pite Napoli. Vabbè, ormai facciamo tutti ulteriori auguri a tutto il popolo napoletano che prosegue ogni weekend nei festeggiamenti e continueranno fino, penso, al 2033. Poi vai, ultima partita. Uè, domina, Pide Milan. Perfetto. E allora noi andiamo con un altro pezzo e poi torniamo in diretta con le altre rubriche, soprattutto le rubriche quelle esileranti del nostro amico Luca. Gente che sta male, una sirena che strilla, e c'hai le mani in tasca, gli occhi chiusi ed il cappuccio su, e c'è un amico tuo che ha fatto i soldi e non lo vedi più, e mentre tiri sulla testa e Roma è tutta blu, riesci solo a dire wow, per tutte le ci pensi che non t'ho mai visto tutta quanta, t'ascoltavo sopra i dischi di Gabriella, Roma canta, figlio di ste strade che me le ricordo spoglie a fine anni 80, 5.000 lire in tasca, in bici, maglia sporca bianca, io di sta città c'ho sto ricordo fisso, un blocco ad ogni uscita del raccordo, il primo morto che ho visto, il primo pacco che ho preso, il primo pezzo che ho steso, al primo tiro non gli ho dato peso, torno su sti San Pietrini, ferri di cavallo sotto le mie Air Max, cerco te ma non trovo la calma, me ne berro un'altra, con una sigaretta accesa sulla riva, faccia schiva, aspettando quest'autobus arriva. Per tutte le volte tutta ricatta, per tutte le sere che stavo ubriaco, andavo a Milano, ma poi ritornavo, per tutti quei drammi che abbiamo passato, per ogni lamento che mai consolato, per tutti gli errori che mai perdonato, per quello che hai preso, per quello che hai dato, tutte le volte che ti ho abbandonato, e tutte le sere che sono scappato, andavo lontano, ma non me ne andavo, per tutte le istanti che abbiamo scazzato, per ogni momento che m'hai regalato, tutte le notti che m'hai tolto il fiato, per quello che hai preso, per quello che hai dato, per quanto sei stronzo, per quanto ti amo. Pezzo nuovo di Gazzelle featuring Nois Narcos, Roma. E ritorniamo in diretta, ultimi minuti per noi. Abbiamo parlato, insomma, a sufficienza di quello che appunto è l'amicizia. E abbiamo fatto i penultimi pronostici, visto che il campionato sta arrivando alla fine. e passo il mic adesso al nostro amico Luca per le sue consuete battute. Prima delle offerte, poi le battute. Ok, mi correggo, pardon. Offerte Pewex, pasta semola Armando 500 grammi a soli 99 centesimi, prosciutto crudo San Daniele a 1,99 euro, cozze del Lago di Paola a 2,99 euro. Pewex, la qualità più conveniente sempre. Solo noi ce l'abbiamo, ecco. Io ribadisco, l'ho iniziato a ripetere già dalla settimana scorsa, a noi il Pewex non ci dà una lira, ma non ci dà manco un pacchetto di patatine. Quindi proseguiamo, andiamo con le battute, giusto? Sì. Vai. Ciao libro, hai freddo? No, no, tranquillo, ho la copertina. Perché mi tieni sulle spine? Perché me la sono presa. Oggi è andata così, due battute secche, proprio come ormai sta diventando una special guest, quindi lui arriva, due battute secche e se ne va. E andiamo con un altro pezzo musicale, poi ritorniamo in diretta per i saluti e basta, per i saluti. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna, bambolina, domani torno da te con una nuova bugia, tanto non ti importa di me, tu hai le fragole. Noi che a fare l'amore sia un film a Los Angeles, tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide. Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole. Oh sì, fragole. Fragole da sabato e domenica da me. Mi prometterò la luna. Io fingerò di crederti solo perché sei te. E non mi va di stare sola. Che tanto lo sai, più forte di me. Più forte di me. Più forte di me. Più forte di me. Sai più farne a meno, non sai che fartene. Forse dopo stasera chissà. Ti invito da me, poi ti grido vattene. Oggi no, oggi no, oggi no. Ma tanto lo sai, più forte di me. Più forte di me, più forte di me. Più forte di me. Fragole, palla e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna. Champagne è un'isola deserta. È come una fragolessa che mi gira la testa. Al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla. Vorrebbe mangiarmi se sono la sua caramella. Fragole, palla e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Importa di me, tu hai le fragole, la la la la. E ritorniamo in diretta mentre appunto andava fragole, pagna, panna e champagne. Qualcuno diceva comunque le fragole sono aumentate troppo, non si possono manco comprare. Ovviamente ho detto a quanto stanno le fragole, a quanto stanno le fragole? Guarda, ti dico un prezzo altissimo che manco dovresti comprare. Dimmi il prezzo. 4,19 euro al supermercato da me, al Tigre. Perfetto, infatti stanno lì, stanno. Puntata piacevole, abbiamo chiacchierato anche un po' scherzando su quello che è l'amicizia, appunto. E ripasso il mic per gli ultimi pensieri prima di chiudere quella che è stata una piacevole chiacchierata. Vai, Luke. Allora, volevo fare... Allora, visto che stiamo parlando sempre di amicizie e tra poco finisce la nostra cara puntata, volevo fare un'ultima domanda a noi. Matteo, se qualcuno ti dice datti uno schiaffo in faccia, tu lo fai sì o no? No! Perfetto. Aliciotta, se qualcuno dice schizzati con il fucile... addosso pure per rinfrescarti, tu lo fai sì o no? No. Perfetto. Falla a me una domanda. Se qualcuno ti dice metti da sciarpa da Lazio, te da metteresti? Non ti rispondo nemmeno perché sono un signore, in questo momento è fascia protetta, quindi non posso dire parolacce o vari insulti. Insulti, che poi lo sai bene che non dobbiamo parlare anche di calcio, soprattutto di rivalità, l'abbiamo detto prima, io e Matteo siamo amici, tifiamo squadre completamente, una sta al nord e una sta al sud, però ci tolleriamo, io voglio bene lo stesso, guarda come mi guarda, come un potrei volergli bene, dai, perfetto, dai, salutiamo, io saluto tutte le amiche e tutti gli amici che ci hanno ascoltato, tutti quelli che ci supportano, tutti i colleghi di Idea Prisma 82, tutti i ragazzi e tutte le ragazze che frequentano e passano qui lo spazio del Brancaleone. Saluto Liceo Orazio, la prof Mirra, e saluto chi vuoi salutare, Ciccio, poi ti passo il microfono così gli ultimi saluti li dai anche tu, vai Ciccio. Ciao a tutti. Ali? Ciao a tutti. Perfetto, abbiamo salutato, quindi buon weekend a tutti e a tutte. Ci aggiorniamo non settimana prossima, perché la settimana prossima è festa. Quindi ci vediamo fra due venerdì. Intanto riascoltatevi il podcast, è la scusa buona perché ci sono stati problemi tecnici, quindi manca a farlo apposta. Buon weekend a tutti e a tutte e a settimana, fra due settimane. Dai a tutti. dice mai come fu dopo la Roy. Se non mi domando chi eravamo, io non mi ricordo chi siamo. Per un briciolo di allegria